Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Perché il mondo finisce a Roma, nella bolla mediatica del nulla rilucente che a Lingotto si è esibito in maniera assolutamente icastica. Devo provare a spiegare che il nulla lucente, che è ovviamente il renzismo, ha delle alternative dentro il Partito Democratico. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, l'avete capito che da tempo ormai è partita la campagna per le primarie all'interno del PD. Questo era Emiliano che ha detto, a proposito della tre giorni della convention di Renzi al Lingotto di Torino, la quale ha ufficializzato la sua candidatura appunto per le primarie, quindi per la conquista della segreteria del PD, Emiliano l'ha definito il nulla rilucente, quindi insomma, cominciano le battute sferzanti reciproche anche Renzi all'inizio di questa tre giorni, vi ricordate, ne abbiamo parlato, ha lanciato un messaggio ai suoi contendenti Orlando Emiliano, diciamo lui con un atteggiamento un pochino più moderato, ma è chiaro che qui adesso non ci sarà esclusione di colpi fino al 30 aprile appunto alle primarie del Partito Democratico. Parleremo di questo e ci occuperemo poi anche di una cosa estremamente seria che è il biotestamento, la proposta di legge sul fine vita. È approdato oggi finalmente in Parlamento, ma pensate che alla Camera, perché lì è iniziata la discussione, non c'erano più di 20 deputati. Questo no, dà proprio l'idea di quanto, di quanta importanza, di quanta passione ci mettano i nostri politici nell'affrontare un argomento che richiede da tanto tempo di essere regolamentato. L'abbiamo visto soprattutto con l'ultimo caso di DJ Fabo. Poi ci occuperemo invece della politica di un altro paese, che è la Gran Bretagna, perché la Camera dei Comuni oggi ha votato per il via libera definitivo, insomma, alla Brexit, comunque un iter che durerà circa 2 anni, e c'è però la Scozia che diceva noi non ci stiamo, l'aveva detto già quando c'era stato il referendum per la Brexit, e adesso la prima ministra scozzese ha lanciato a sua volta un referendum per l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Per la vostra interazione con Effetto Notte, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì per voi giorno e notte, oppure il numero per SMS e WhatsApp che è il 349 238 6666. Tanti argomenti che approfondiremo poi con gli ospiti, ma prima di tutto, come sempre, il riassunto della giornata. Brexit, la Camera dei Comuni annulla gli emendamenti dei Lord che assicuravano garanzie per i cittadini europei, vince dunque il governo, ma intanto la prima ministra scozzese, contraria alla Brexit, annuncia un referendum per staccarsi dal Regno Unito. Tensione Olanda-Turchia e Ankara per rappresaglia, mette in discussione l'accordo sui migranti. Biotestamento, il disegno di legge sul fine vita approda a Montecitorio, che oggi ha avviato l'esame del provvedimento, ma l'aula è semideserta. Fisco, si lavora all'assegno universale per figli a carico, ma resta il nodo delle coperture. Respinto il ricorso dei genitori nonni, la figlia che era stata allontanata a pochi mesi dalla nascita è adottabile. Coppie dello stesso sesso, il Tribunale di Roma riconosce la stepchild adoption a una coppia di donne. Taxi, proclamato lo sciopero nazionale per il 23 marzo, Uber in giornata ha scritto ai tassisti dicendo incontriamoci a Roma il 20 marzo e parliamo. Calcio per il posticipo di Serie A, in campo Lazio-Torino. Partiamo dunque dalle ultime notizie che riguardano il nostro gruppo. Il gruppo 24 Ore si è riunito oggi sotto la presidenza di Giorgio Fossa, il consiglio di amministrazione del Sole 24 Ore SPA, che ha deliberato di prendere atto della richiesta del direttore napoletano e per effetto di collocarlo in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 23 del contratto nazionale giornalistico, assegnando ad interim le relative funzioni a Guido Gentili. Il consiglio di amministrazione ha inoltre dato mandato all'amministratore delegato di porre in essere le più opportune iniziative e azioni in ogni competente sede a tutela dell'immagine e degli interessi della società, anche in relazione agli sviluppi dell'indagine dell'autorità giudiziaria in corso. E adesso gli ultimi sviluppi che riguardano il percorso della Brexit. La Camera dei Comuni ha abrogato stasera 2 emendamenti che erano stati approvati dalla Camera dei Lord, emendamenti alla legge destinata ad autorizzare il governo di Theresa May ad avviare la Brexit. Il primo emendamento, contrastato dall'esecutivo, mirava a garantire sin d'ora i diritti dei cittadini europei già residenti nel Regno Unito, diritti che però la Prima Ministra intende assicurare solo in un quadro di reciprocità con gli espatriati britannici nel continente. Via libera dunque della Camera dei Comuni al governo di Theresa May, ed è già tornata stasera alla Camera dei Lord la legge che autorizza l'avvio dell'iter verso la Brexit. Ne parleremo nel frattempo, però la prima ministra scozzese, come vi dicevo, Nicola Sturgeon, contraria alla Brexit, ha annunciato la convocazione di un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. Restiamo alle notizie dall'estero, con la tensione tra Olanda e Turchia che rischia di travolgere anche l'accordo dell'Europa sui migranti. La crisi diplomatica tra Olanda e Turchia mette l'Europa all'angolo sulla questione dei migranti. Secondo il ministro degli affari europei turco Omar Celik, la Turchia dovrebbe rivalutare l'accordo sull'immigrazione firmato con Bruxelles. Tutto è iniziato con il no dell'Olanda a un comizio che due ministri di Ankara volevano fare a Rotterdam. La diplomazia turca ha protestato formalmente per il caso e il premier turco Erdogan ha definito gli olandesi nazisti e fascisti. L'Olanda chiede scuse formali, l'Unione Europea tenta di fare da pompiere. Nonostante le tensioni, secondo il portavoce della Commissione Europea Margaritis Schinas, non è il caso di sospendere la controversa intesa, bisogna fare anzi tutto il necessario per mantenere lo spirito e la lettera dell'accordo. Speriamo che la parte turca, ha aggiunto, faccia lo stesso. Qualche ora dopo il ministro turco Celik ha minacciato che l'accordo potrebbe saltare e ha ricordato l'Europa che è Bruxelles ad essere all'angolo. Questo era il pezzo di Valentina Furlanetto, adesso invece parliamo di biotestamento e della cosiddetta DAT, le disposizioni anticipate di trattamento previste dalla proposta di legge in discussione nell'aula di Montecitorio. Sentiamo il servizio di Vincenzo Miglietta. Un testo di 5 articoli, quello in aula alla Camera, che punta a regolare il fine vita attraverso l'introduzione delle disposizioni anticipate di trattamento. Le cosiddette DAT consentiranno ad ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere di esprimere le proprie preferenze in materia di trattamenti sanitari, il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente, quest'ultimo non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge come l'eutanasia. Prima firmataria del provvedimento la deputata del PD Donata Lenzi. Chi meglio di noi stessi può dire se continuare le cure, se sente troppo dolore, se è ora di smetterla? A Montecitorio i numeri dovrebbero essere a favore dell'approvazione della legge, un sì trasversale con la probabile convergenza dei 5 Stelle, critiche però dai moderati di maggioranza e dal centrodestra, così Eugenia Roccella. Questa è, nel testo attuale, una legge aperta, forse addirittura spalancata all'eutanasia. Sul biotestamento serve un accordo ampio, ma la priorità è aiutare i malati a vivere, dice Monsignor Paglia, presidente della Pontificia Accademia della Vita. E oggi nell'aula della Camera a discutere di un provvedimento così delicato, vi dicevo, importante, c'erano una ventina di deputati e poi torneremo su questo tema. L'Italia deve introdurre, senza più attendere, i reati di tortura e trattamenti degradanti, assicurando che siano sanzionati adeguatamente e gli autori non possano più restare impuniti. A chiederlo il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ha ritenuto insufficienti le misure sinora prese dall'Italia per dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte Europea dei Diritti Umani sul caso Cestaro, irruzione nella scuola Diaz durante il G8 di Genova, vi ricordate, emessa il 7 aprile 2015. E poi, mentre si fanno passi avanti nella battaglia per riconoscere come famiglie quelle arcobaleno, una nuova sentenza del Tribunale Civile di Roma ha riconosciuto la stepchild adoption per una coppia di mamme romane che hanno avuto una figlia grazie alla fecondazione assistita. Eppure ci sono casi in cui restiamo ancora indietro nel tutelare i minori, come nel caso della bambina, figlia dei cosiddetti genitori nonni per la loro età. Confermato infatti per lei lo stato di adottabilità. Sentiamo il servizio di Annalita D'Ambrosio. Viola resterà con i genitori adottivi dopo la nuova pronuncia dei giudici di Torino che hanno respinto il ricorso dei genitori naturali. Nata nel 2010 grazie ad una fecondazione eterologa, la piccola venne tolta a Gabriella e Luigi dopo una denuncia di abbandono presentata dai vicini di casa. Denuncia caduta nel nulla perché l'abbandono non ci fu. La piccola veniva monitorata costantemente mentre per soli 7 minuti il papà si allontanava da lei per riscaldarle il biberon. Fatali però quei 7 minuti, la bimba che si sveglia e piange, la vicina di casa che denuncia la presunta colpa che viene fuori, l'età, 69 anni lui, 57 lei, all'epoca troppo vecchi per occuparsi di quella figlia tanto desiderata, partorita all'ospedale di Sant'Anna da Gabriella solo 35 giorni prima. I giudici hanno considerato lo stato attuale, Viola adesso ha un'altra famiglia, quei 35 giorni sono stati pochi per creare un legame con i genitori naturali. L'avvocato Adriana Boscagli, che li difende però ad effetto giorno, ha spiegato che il rapporto per 3 anni tra di loro non si era mai interrotto. La bambina fino ad oggi non è che è stata con una famiglia, fino a che ha potuto vedere i suoi genitori li ha visti con regolarità, ma contemporaneamente ha passato varie comunità, ha passato varie famiglie affidatarie. confermata dunque l'intenzione di presentare ricorso. E ora parliamo di fisco, un sostegno universale per i figli a carico che raggiunga anche autonomi e incapienti. La Commissione Finanze del Senato ha ripreso dopo diversi mesi l'esame del disegno di legge delega all'EPRI, resta però il nodo delle coperture, cioè dove trovare i soldi, visto che la proposta aggiunge 2 miliardi e 4 regime ai 19 che oggi si spendono per gli assegni familiari che sarebbero riassorbiti nel nuovo strumento. Siamo alla cronaca, oggi c'è stata l'autopsia del romeno ucciso durante una tentata rapina nell'Odigiano, ma sono ancora molti dubbi sulla dinamica dei fatti e si riapre il dibattito sulla legittima difesa. Sentiamo il servizio di Raffaella Calandra. La legittima difesa non è così lampante. Raccolti indizi, sentiti testimoni, è la procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, a sollevare dubbi sulla versione dei fatti di Mario Cattaneo, l'oste di Casaletto Lodigiano, che durante un tentativo di rapina ha sparato e ucciso il 33enne romeno Petro Ungureanu. Ma quanti colpi sono partiti? È questo il primo nodo e il primo dubbio, perché mentre l'oste, ora indagato per omicidio volontario, racconta che lo sparo sarebbe partito durante uno scontro, un vicino di casa mette a verbale di averne sentiti due. È Cattaneo che va verso la colluttazione. I ladri avevano aggredito i beni, non la persona, ricostruisce il procuratore, che chiarisce come la legittima difesa domiciliare non dia licenza di uccidere. Non vogliamo vendetta, ma giustizia, dice il fratello di Petro. E allora, ancora una volta, la morte di un ladro riaccende il dibattito e lo scontro sulla legge. Il Parlamento tiene ferma da 4 anni la proposta sul rafforzamento della legittima difesa, attacca il leghista Salvini e il guardasigilli Orlando apre ad una correzione della norma, ma avverte: la giustizia fai da te, delegittima lo Stato. La sicurezza deve essere garantita dallo Stato. Bisogna capire se la ipotesi della legittima difesa è adeguata a tener conto anche di particolari situazioni che si possono venire a determinare. E adesso parliamo dello sciopero dei tassisti che si fermeranno il 23 marzo dalle 8 alle 22. Lo sciopero nazionale è stato proclamato dal parlamentino dei tassisti riunito a Roma. Saranno rispettate le fasce di garanzia. Tra l'altro oggi dicono faranno sciopero il 23 marzo perché umiliati dal governo che non dà risposte. Questa è la motivazione. Tra l'altro oggi è stato respinto l'invito di Tursi di Uber al dialogo. Ha scritto una lettera ai tassisti per aprire un dialogo e appunto lo stop sarà invece il 23 dalle 8 alle 22. È morto 84 anni nella sua abitazione di Toscanella di Dozza, Romano Cenni, fondatore dell'impero commerciale del Mercatone 1. Il suo nome è legato alla storica squadra di ciclismo che conquistò nel 1998 la doppietta Giro Tour d'Italia, Tour de France, Marco Pantani. Negli ultimi anni la crisi ha colpito il gruppo fondato da Cenni, finito in amministrazione speciale straordinaria. Attualmente è in corso un'inchiesta giudiziaria per bancarotta. C'è spazio anche per parlare di dinosauri. Brevemente, le impronte del più grande dinosauro italiano sono state trovate in Abruzzo, hanno tra 125 e 113 milioni di anni, mentre penso che le impronte ne avranno lasciate già sul campo. Dario Ricci, Lazio, Torino, non è vero? Dario? Sì, l'età è sicuramente più recente perché siamo intorno alla mezz'ora del primo tempo, quindi non facciamo neanche la partita con quelle del dinosauro. Siamo tra l'altro impronte che sono giusto quelle degli scarpini sull'erba, perché altre tracce questa partita non ne sta lasciando. Siamo ancora sullo 0-0, è Immobile il protagonista di questa prima fase del match, vicino al gol in un paio d'occasioni, ma la difesa del Torino regge e regge bene. Grazie Dario Ricci, e con questo direi che possiamo congedarci molto brevemente per aggiornare chi sta viaggiando. Vi ricordo per i vostri interventi, la vostra interazione qui a Effetto Notte, pagina Facebook del programma Effetto Notte, oppure 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS. C'è per esempio qualcuno che dice: chissà perché non se ne occupò la Bonino del testamento biologico, scusate, quando era ministro. Io ricordo che è stata solo ministra degli esteri, quindi non aveva neanche la competenza, diciamo, per occuparsene, non era materia sua. Comunque pare che abbia insistito parecchio nel tempo. E poi invece qualcun altro scrive a proposito dei politici, dei deputati, che oggi erano una ventina alla Camera, mentre ha approdato il biotestamento, dice: come sei tiranna e cattiva, vuoi far lavorare i politici di lunedì. In effetti, Elena scrive, in effetti un deputato ha detto: ma insomma è lunedì, bisogna capire, ma non so se questa può essere una difesa, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, vi ho riassunto allora le notizie principali della giornata, voi ricordatevi di accendere puntualmente alle 21 per essere costantemente aggiornati tutte le sere dalle 21 alle 22. Adesso cominceremo ad approfondire i vari temi a partire dalla politica italiana tra pochissimo. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Nota, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Vedo anche molti messaggi su un tema che tratteremo poi dopo, quello del biotestamento, che oggi è approdato la proposta di legge alla Camera, seppure una Camera decisamente sguarnita, possiamo dire praticamente quasi deserta. Quali sono le notizie principali? Ve lo ricordo rapidamente. Brexit, la Scozia vuole la secessione da Londra, ma Londra si oppone. Intanto oggi c'è stato un voto decisivo per il via libera al governo di Theresa May verso appunto l'uscita dall'Unione Europea. Respinto in Italia il ricorso dei cosiddetti genitori nonni, la figlia è adottabile. E poi invece un'altra sentenza, il Tribunale di Roma che riconosce la stepchild adoption a una coppia di donne che ha avuto una bambina grazie alla fecondazione assistita. E poi il primo ministro Erdogan, il presidente turco Erdogan, all'attacco della Merkel e dice sostiene il terrorismo dopo che la cancelliera tedesca ha dato il suo sostegno all'Olanda. C'è questa tensione tra Olanda e Turchia ed Ankara adesso mette in dubbio l'accordo sui profughi. Ladro ucciso dal ristoratore nell'Odigiano nei giorni scorsi, il fratello del ladro ucciso dice noi perdoniamo ma vogliamo giustizia. E poi ci sono ancora dei dubbi, si parla di un'ipotesi dei due colpi sulla dinamica di quanto avvenuto. Salvini dice la legittima difesa è comunque più forte. E poi al via la discussione sul biotestamento alla Camera, ma l'aula è praticamente deserta e Monsignor Paglia auspica l'accordo più ampio in Parlamento. Fisco, si lavora all'assegno universale per i figli a carico, ma resta il nodo delle coperture. E poi c'è in corso la partita d'anticipo di posticipo di Serie A Lazio-Torino, per il momento 0-0. Nelle scorse settimane oggettivamente qualcuno ha cercato di distruggere il PD e lo ha fatto perché c'era una debolezza oggettiva della leadership, innanzitutto mia. Guai a girarsi intorno. C'è stato un momento di debolezza. Qualcuno ha pensato, sai che c'è, quasi ne approfitto. Non si sono accorti, non si sono resi conto che c'è una solidità e una forza che, indipendentemente dalla potenza o meno della leadership, esprime la comunità del Partito Democratico. Questa comunità non la rompe nessuno! Si mettano il cuore in pace! È una storia che c'era da prima di noi, che cammina con noi e che ci sarà dopo di noi. È la vostra storia, è la vostra forza! E questo è Renzi, naturalmente, come non riconoscerlo, che in questa convention che c'è stata tre giorni a Torino, al Lingotto, l'ex stabilimento della Fiat che è diventato un centro congressi, in cui ha lanciato ufficialmente la sua candidatura alle primarie e quindi alla conquista della segreteria del PD. Da lì è ripartito, avete sentito anche un passaggio con quale enfasi, poi ne sentiremo magari qualcun altro, e ha detto hanno cercato di distruggere il PD, insomma non ci riusciranno perché questa è la nostra storia, e poi ha citato più volte il futuro. Mai più paura del futuro, ha detto il PD, detti l'agenda del paese. Però come avete sentito all'inizio, Emiliano, che è uno dei due competitor o contendenti insomma insieme a Andrea Orlando di Renzi in queste primarie, ha commentato al Lingotto il nulla rilucente ha avuto lo zero impatto sul paese. Vogliamo sentire questo passaggio di Emiliano? Perché il mondo finisce a Roma nella bolla mediatica del nulla rilucente che al Lingotto si è esibito in maniera assolutamente icastica. Devo provare a spiegare che il nulla lucente, che è ovviamente il renzismo, ha delle alternative dentro il Partito Democratico. E Renzi è tornato anche sul suo carattere, ci hanno discusso un sacco di tempo sul mio carattere, sentiamo. Sono tre mesi che discutono se è cambiato il mio carattere. Noi vogliamo cambiare l'Italia, non il carattere di qualcuno, l'avete capito o no? Che a noi interessa la politica, la persona, non i personalismi. Invece chiediamo a Betta Fiorito, la nostra Betta Fiorito da Roma, cosa ha capito bene di questa tre giorni, Betta, di Renzi, come si è posto, ti è parso più conciliante, più accogliente, più in ascolto, Come ti è sembrato? No, Renzi è Renzi, Roberta. Ecco, diciamo che lui ha un piglio che gli altri nel PD non hanno, e questo è il fatto di dover far conto, no? Cioè Renzi è un trascinatore e che è un competitor in questa fase della politica italiana è possibile contro i 5 Stelle. Emiliano dice il nulla, la luce lì, la luce, il nulla. Insomma, Emiliano non trascina nulla. Orlando è... aspettiamo di vedere però, no, Betta? Quelle prime, beh, insomma, lui è il favorito, secondo me è quello che... Renzi resta però il favorito nei sondaggi. Sì, ma insomma, Orlando sarà uno che farà squadra con Renzi. Emiliano secondo me scomparirà dalla scena politica, forse andrà a ingrossare le file dei fuoriusciti del PD, che oggi hanno poi presentato una mozione contro Luca Lotti, no? Perché poi continua la battaglia all'interno della sinistra contro il renzismo, per cui i democratici progressisti, il movimento democratico progressista dei fuoriusciti del PD hanno presentato una mozione in cui chiedono al governo di sospendere le deleghe al ministro dello sport Luca Lotti, che non a caso fa parte del Giglio Magico, quindi continua questa battaglia all'interno del renzismo, all'interno di quello che è o il PD o l'ex PD. Betta, però a proposito di renzismo, perdonami, vorrei sentire ancora questo passaggio di Emiliano e sapere cosa ne pensi. C'entro poco con questa maggioranza che sinceramente ha il culto del capo, che è una cosa estranea al centro-sinistra. Io ricordo di aver partecipato ai funerali di Enrico Berlinguer qui a Roma tanti anni fa. Era un leader potentissimo, ma non c'era il culto della personalità di Berlinguer, e Berlinguer si sarebbe sicuramente sottratto a questa pratica antipatica e impolitica. Così ha parlato Emiliano a Repubblica TV. Visto che Renzi durante questi tre giorni al Lingotto ha detto noi non siamo reduci, siamo eredi, ti sembra che rispetto a quello che dice Emiliano sia in qualche modo un erede di Berlinguer Renzi? Renzi non è un erede di Berlinguer, perché Renzi viene da tutt'altra parrocchia, come si direbbe. Ed è forse questo il problema per alcuni? Per alcuni è questo il problema, questo è il vero nodo, no? Cioè, come abbiamo sempre detto, Renzi guarda al centro, Emiliano forse guarda a sinistra, però non si sa perché doveva uscire, poi non è uscito. Insomma, Emiliano non ha certamente appeal, perché uno che oggi dice a Repubblica TV io non mi rimetterò mai dalla magistratura, cioè, secondo me è una persona che vuole occupare due sedie e avere un ruolo, insomma non si capisce, non è molto chiaro, no? Detto che uno concorre, è presidente della Regione Puglia e concorre al PD, alla carica di segretario, io mi stupisco che non abbia ancora lasciato la magistratura, no? Questi doppi incarichi, poi queste aspettative, sappiamo anche che queste aspettative non generano mai delle cose positive, no? Ora ogni riferimento è puramente casuale. E il problema è un altro, è che secondo me Emiliano quando dice io non lascio la magistratura non è credibile come politico. Questo è il problema. Allora, la cosa è sicuramente il renzismo è qualcosa che si oppone a quello che è magari una sinistra conciliante, però è forse l'unico che a sinistra oggi può vincere le elezioni contro quello che è un Movimento 5 Stelle. Andiamo però oltre quello che è il PD. Vediamo quello che è al di là dello schieramento, no? Negli ultimi sondaggi ancora danno il Movimento 5 Stelle in ripresa. Bisogna capire se poi c'è questo patto segreto post-elettorale tra il Movimento 5 Stelle e Salvini della Lega. Questo è il conquista. Mi sembrerebbe parecchio incongruente. Comunque Betta, sentiamo anche quest'altro passaggio dell'intervista oggi a Repubblica TV di Emiliano a proposito di possibili alleanze e di impossibili anche alleanze. Nei confronti del Movimento 5 Stelle, che spesso sbaglia termini, è aggressivo e violento, non c'è nessuna prevenzione, come probabilmente, ecco, io ho delle prevenzioni ideologiche nell'immaginare un rapporto con la destra, infatti, ma non per questioni di rispetto, per questioni. Come facciamo a tornare indietro sull'articolo 18 in un governo che abbia dentro la destra? Come faccio a evitare polemiche Alfano sui migranti? Alfano è destra per lei? Ma Alfano per lo deve decidere innanzitutto lui che cos'è, l'altro. Perché se prima lo decide lui, poi eventualmente do un commento lei io. Se la sarà fatta. No, io non cioè, credo. Si può continuare a governare con Alfano nel suo PD? No, io penso che con Alfano non aveva senso prima e non ha senso adesso. Siamo in chiusura, Betta. Comunque, allora, mi pare che Emiliano continui un po' a tenere un occhio aperto, uno sguardo obliquo almeno verso il Movimento 5 Stelle. Orlando invece nei giorni scorsi ha detto più volte che lui intende ricomporre il centrosinistra e quindi se diventasse segretario recuperare, diciamo così, gli scissionisti, mentre Rosato, Renziano, del PD, ha parlato di un'alleanza con Pisapia, il suo movimento progressista, no? Finirà così, Roberta, si farà un PD con Renzi, Martina e Orlando. Orlando sarà colui che sarà deputato a dialogare con la sinistra, questo non so e questo non lo possiamo dire nessuno, non lo può dire nessuno se porterà poi alla vittoria del PD o del Movimento 5 Stelle, però questo sarà probabilmente sarà la struttura del PD. Renzi segretario, a quel punto che ingloba anche Orlando. Per quanto riguarda Emiliano, mi sembra che ci siano ancora troppe opacità, anche questa cosa della magistratura è un'opacità e andrà risolta e non mi sembra che ci sia un appeal che magari la sinistra si aspettava. Grazie Betta Fiorito da Roma. Grazie a te. Ciao Betta, buona serata. Adesso dobbiamo prenderci sempre questa pausa per la pubblicità. Voi intanto continuate i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 che è il numero per WhatsApp ed SMS. Tra pochissimo parleremo della discussione sul biotestamento, ci saranno due parlamentari e come vi dicevo chiederò anche loro conto di questa... praticamente camera semideserta, tra poco. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo dei temi, abbiamo parlato delle principali notizie all'inizio, poi ci siamo soffermati sulla tre giorni renziana al Lingotto e poi anche con l'ufficializzazione della candidatura alle primarie di Renzi e poi anche sugli altri due candidati, Emiliano e Orlando, con il commento della nostra Betta Fiorito su quelle che potrebbero essere le ipotesi più fondate. Comunque insomma, bisogna aspettare il 30 aprile per vedere cosa succede. Adesso invece restiamo su un tema che è politico ma è anche molto civile, sociale, che è veramente nell'interesse di tutti regolamentare, quello del biotestamento, di cui parleremo tra pochissimo. Vedo già molti messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Ne vorrei leggere qualcuno. Per esempio Elena dice Cristiano, scusate, dobbiamo aspettare i martiri, il dolore reso pubblico, bisogna ogni volta trovarsi sotto i colpi di tremori e vergogne per muoversi civilmente attorno a una realtà senza tutela di legge a proposito del biotestamento. E poi Elena, a proposito delle poche diciamo della esigua rappresentanza dei deputati che c'era oggi alla Camera, dice Elena, il lunedì la maggior parte dei parlamentari non è a Roma, partono il venerdì e ritornano per martedì, forse per questo oggi è stato messo all'ordine del giorno l'argomento sapendo che sarebbero stati in 20, una vergogna. E poi dice Francesco, non resta che attendere il prossimo DJ Fabo, allora per qualche giorno la politica fingerà nuovamente di esistere e di interessarsi a questi temi. Insomma, sicuramente non messaggi confortati e confortanti da rispetto a quello che è iniziato come discussione il biotestamento, però tra poco sentiremo due parlamentari che oggi c'erano. Intanto vi ricordo, se avete acceso puntualmente alle 21, le notizie principali della giornata. Brexit, la Camera dei Comuni annulla gli emendamenti dei Lord che assicuravano garanzie per i cittadini europei, vince dunque il governo, ma intanto la prima ministra scozzese, contraria alla Brexit, annuncia un referendum per staccarsi dal Regno Unito. Tensione tra Olanda e Turchia e Ankara per rappresaglia mette in discussione l'accordo sui migranti. Dio testamento, il disegno di legge sul fine vita approda a Montecitorio che oggi ha avviato l'esame del provvedimento ma l'aula è semideserta. Respinto il ricorso dei genitori nonni, la figlia che era stata allontanata a pochi mesi dalla nascita è adottabile. Coppie dello stesso sesso, il Tribunale di Roma riconosce la stepchild adoption a una coppia di donne. Taxi proclamato lo sciopero nazionale per il 23 marzo e poi per il calcio nel posticipo di Serie A Lazio-Torino ancora pareggio 0-0. Occupiamoci allora adesso di questo argomento, il biotestamento, la legge sul fine vita, un tema che in Italia torna a ondate, ma si può dire a ondate emotive ogni volta, visto che la politica è un po' latita, ogni volta che emerge dall'anonimato e alla ribalta delle cronache un caso doloroso di qualcuno che decide, o i familiari per lui e per lei, che le sue condizioni di terribile e inesauribile sofferenza lo portano a volerla farla finita. L'ultimo caso che ha prepotentemente riaperto il dibattito politico e sociale, lo sapete, è stato quello di DJ Fabo Antoniani, il quarantenne vittima di un incidente stradale che lo aveva reso tetraplegico e cieco da diverso tempo, che ha deciso nelle scorse settimane di mettere fine a queste sofferenze andando a morire in Svizzera. Ma Fabo aveva anche lanciato prima un disperato appello al Presidente della Repubblica, chiedendo alla politica di non lasciarlo solo nella sua guerra contro una vita che non voleva più vivere. Eppure anche oggi che appunto questo disegno di legge è approdato alla Camera per essere discusso, questo disegno di legge sul testamento biologico, la stragrande maggioranza dei deputati era assente. Si parla di una media di 20. Allora vorrei interpellare due parlamentari che invece c'erano, che sono Stella Bianchi, deputata del Partito Democratico. Buonasera, onorevole Bianchi. Buonasera a voi. E Alessandro Pagano, deputato Lega Nord. Buonasera, onorevole Pagano. Buonasera a voi. Buonasera. Bianchi, vorrei iniziare da lei e chiedere a lei un breve commento intanto su questa, diciamo, piuttosto diradata presenza. Ma guardi, è normale che succeda così. Ogni progetto di legge inizia il suo esame in aula con una fase di discussione generale che si svolge sempre di lunedì e alla quale partecipano sempre solo i deputati che parlano in discussione generale, perché il lunedì è il giorno che normalmente è dedicato alle attività sul territorio, agli incontri con tutte le realtà che è bene che ascoltiamo nella nostra attività parlamentare. E poi ci informiamo quando non siamo presenti in aula, leggendo i resoconti o seguendo la diretta via web, se siamo in condizioni di farlo. Vorrei chiedere la stessa cosa, mi scusi, ma Alessandro Pagano, visto che molti ascoltatori stanno scrivendo su questa cosa, lei che ne pensa, Pagano, di questa cosa? Beh, il lunedì, no, insomma. Il motivo tecnico che è stato spiegato bene dalla collega, però il dato è che questa legge evidentemente muove delle sensibilità, degli interessi, quindi posso assicurare che in generale il dibattito durante la fase invece cruciale, quando si discuteranno gli emendamenti, quando invece ci sarà il dibattito vero e proprio sulla legge. Lei dice che ci sarà una presenza maggiore, ma lo speriamo, perché dopo tanti rinvii, dopo i ragionamenti. Allora, ritorniamo all'onorevole Bianchi. Lei è che ne pensa di questa questa proposta di legge? Penso che la condivida, visto che è stata stilata un prima firmataria da importante. Una sua collega del PD. Sì, assolutamente, un progetto di legge importante. Intanto chiariamo, non è una legge sull'eutanasia, è una legge sul consenso informato, sulle disposizioni anticipate di trattamento e sulla pianificazione delle cure. Ed è una legge che è stata frutto di una mediazione, di un lavoro lungo di mesi. Anche su questo si accendono i riflettori in certi momenti, ma per arrivare a portare un disegno di legge in aula, tanto più di tale complessità e con delle posizioni così distinte tra i diversi gruppi parlamentari, c'è un lavoro di mesi e mesi di preparazione, prima in un comitato ristretto e poi in commissione. E quindi è un buon passo avanti, frutto di una mediazione, come dicevo, che finalmente riconosce un diritto essenziale, e cioè il diritto a decidere del proprio corpo, il diritto a poter scegliere liberamente qual è il limite sopportabile per ognuno di noi quando non c'è più possibilità di guarigione. Ed è una legge che è assolutamente necessaria ora, tanto più quanto avanzano i progressi della medicina. È grazie alla medicina che fa dei progressi straordinari, e ne siamo assolutamente lieti e ci auguriamo che continuino questi progressi, ma è grazie alla medicina più moderna che si riescono a mantenere in vita e si riescono a mantenere attive delle funzioni vitali, e questo ci porta a chiederci se è davvero vita quella di chi magari è completamente intrappolato nel suo corpo perché la SLA a questo lo ha ridotto, sente tutto e riesce solo a muovere una palpebra, come succedeva ad esempio a Max Fanelli, un uomo di Senigallia che abbiamo conosciuto. Chiarissima. È giusto che possa decidere ognuno di noi liberamente, invece, senza imporre nulla a nessuno. Invece, che cos'è in contrario a questo, onorevole Pagano, lei sull'autodeterminazione? No, guardi, è una legge che possiamo definire eutanasica, è esattamente il contrario di quello che dice la collega, perché attraverso un passaggio che è, ovviamente non sarà l'ultimo, come dimostrano le esperienze in altri paesi, Olanda, Lussemburgo, Belgio, per citare i casi più eclatanti, qui siamo di fronte a un primo step a cui evidentemente poi gli ispiratori di questa filosofia di vita si appelleranno, avranno il gancio per fare altro. E dico tutto questo senza ombra di dubbio, perché in verità, quando vengono portati dei casi come quello che è stato citato in GFAPO, massimo rispetto della sua vita, è evidente che c'è una malafede totale e assoluta. Tant'è che i media, da quel momento in poi, si sono buttati all'interno del pensiero unico per far sì che la legge venisse varata. Ma noi sappiamo bene che in Italia ci sono 3.500 casi di persone che sono imprigionate dentro il loro corpo, per usare la frase della collega, e che invece gridano che vogliono vivere. E lo dimostrano i casi delle decine di strutture pubbliche e private che danno speranza e possibilità concreta a queste persone che hanno trovato la voglia di dimostrare concretamente con le loro testimonianze che la vita per loro è indispensabile. Ma secondo lei, onorevole Pagano, però nessuno ne parla. Ma secondo lei non è possibile che chi vuole continuare a vivere lo esprima e chi non vuole esprima a sua volta l'autodeterminazione? Ma guardi, il dato che è drammatico è che si è riuscito a invertire completamente le cose, ovviamente frutto di una cultura dominante. Per cui questa legge, per esempio, il medico, che è un elemento indispensabile nel rapporto medico-paziente, non conta più niente, perché la decisione che viene a essere esercitata da parte della persona diventa essere preminente rispetto a tutto. Ma noi sappiamo bene, e lo sappiamo bene soprattutto con queste evoluzioni della scienza di questi ultimi anni, come invece si sono fatti dei passi giganti enormi. Non è possibile, per esempio, lasciare a singolo la decisione, o peggio ancora un fiduciario, la decisione delle proprie scelte di vita, quando noi sappiamo benissimo che ci sono delle evoluzioni incredibili. Provate a immaginare, per esempio, dirne una, il tumore al pancreas, dove fino a qualche anno fa si moriva, e invece oggi, grazie ai progressi della scienza, che sono quotidiani, costanti, si riesce non solo a guarire, ma addirittura avere qualità. Chiarissimo anche quindi il suo ragionamento, Pagano. Abbiamo... È evidente che da questo punto di vista non viene lasciato spazio né al rapporto col medico, né in generale alla dignità della vita in quanto tale. Chiarissimo, perché evidentemente Pagano, ognuno se l'ha impostata per come... Abbiamo ancora, mi scusi Pagano, ancora un minuto a testa, perché poi vi devo lasciare, Bianchi, proprio un minuto. Ma su questo il collega Pagano sa perfettamente che ci sono due binari distinti nella legge: da una parte la possibilità di dare le proprie disposizioni anticipate di trattamento, dall'altra la pianificazione delle cure con il medico. Quindi questa rappresentazione è assolutamente fuorviante e dovrebbe, come dire, saperlo. Quanto ai progressi della medicina e alla possibilità di scegliere, naturalmente c'è sempre la possibilità di tornare indietro rispetto alla disposizione anticipata di trattamento che si è data, ma è di uno Stato civile, uno Stato civile ha il dovere di riconoscere il diritto di ognuno di noi a decidere che cosa di poter tornare in possesso del proprio corpo quando non ci sono più speranze di guarigione, senza imporre nulla a nessuno. Chiaro. Pagano, anche lei un minuto preciso, come è stato l'onorevole Bianchi. Non è vero assolutamente questo, perché il medico, da questo punto di vista, non ha nessuna possibilità di poter incidere concretamente, visto che non è una dichiarazione, ovvero una sensibilità, un desiderio, ma è una volontà pervicace, così come è stata scritta la legge, a cui il medico deve obbedire. Qui diventa a tutti gli effetti un esecutore testamentario. In altre parole, deve obbedire. Per cui il medico, che sa che quella persona che è in coma, che potrebbe uscire dal coma fare sulla base della sua esperienza, sulla base della sua professionalità, sulla base dell'evoluzione della scienza e della, della medicina, non può intervenire su nulla per niente, così come è stato scritta, perché deve obbedire alle disposizioni che magari una persona qualche anno prima aveva dato e che oggi magari, come dimostrano esperienze di chi esce dal coma, di chi esce da ambulanze brutte e che poi se ne è pentito di quella dichiarazione, può dimostrare. Benissimo. Quindi è evidente che questa legge è soltanto una volontà proprio pervicace di superare quelle che sono invece il rispetto alla vita in quanto tale e di portare avanti una logica eutanasica. Ci dobbiamo fermare. Ringrazio l'onorevole Stella Bianchi del PD, l'onorevole Alessandro Pagano della Lega Nord, quindi le posizioni, avete sentito, restano ancora molto distanti e vediamo però che si arrivi a una conciliazione e anche a una regolamentazione il prima possibile. Noi adesso andiamo sicuramente in viabilità, ci sentiamo tra pochissimo. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo in pochi secondi, tanti messaggi vostri sull'argomento che abbiamo appena trattato, però adesso devo correre su un altro tema e ricordarvi molto brevemente quali sono le notizie più importanti. L'avete sentito del biotestamento, la proposta di legge sul fine vita che è approdata in Parlamento, anche se alla Camera c'erano soltanto 20 deputati oggi, dicono i parlamentari che abbiamo sentito che in realtà è così sempre all'inizio dell'iter di una legge, ma poi dopo nei momenti cruciali lo speriamo. E poi la Brexit, di cui parleremo tra pochissimo, con la Scozia che vuole la secessione ma Londra non vuole, e poi respinto il ricorso dei cosiddetti genitori nonni, la figlia è adottabile, poi a Roma il tribunale riconosce la stepchild adoption per una coppia di donne. Erdogan, il presidente turco, all'attacco della cancelliera Merkel, dice sostiene il terrorismo perché lei ha espresso sostegno nei confronti dell'Olanda e vuole per rappresaglia Ankara rivedere gli accordi sui profughi con l'Unione Europea. E poi la partita in corso, il posticipo di Serie A Lazio-Torino, sempre 0-0. These considerations lead me to the conclusion that if Scotland is to have a real choice, when the terms of Brexit are known, but before it is too late to choose our own course, then that choice must be offered between the autumn of next year, 2018, and the spring of 2019. Insomma, praticamente, questa è la prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon, a proposito della Brexit e di tutto l'iter ormai avviato per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, ha annunciato oggi di essere d'accordo, come lo era anche quando passò questo sì alla Brexit, e che convocherà la Scozia, la prima ministra, quindi un referendum per la Scozia che si vuole a questo punto rendere indipendente dal Regno Unito per poter restare nell'Unione Europea. Ne parliamo con Domenico Maria Bruni, docente di pensiero politico europeo all'Università Lewis ed esperto di Gran Bretagna. Buonasera professor Bruni. Buonasera. Allora, oggi per la Brexit c'è stato il dibattito decisivo, no, alla Camera dei Comuni sulla proposta di legge per attivare la Brexit, e mi pare che sia un passo decisivo ormai questo. Hanno annullato degli emendamenti che aveva posto la Camera dei Lord che tentavano di dare delle garanzie ai cittadini europei che sono al momento in Gran Bretagna. Esatto, erano due gli emendamenti in realtà che la Camera dei Lord aveva aggiunto al testo approvato dalla Camera dei Comuni. Il primo è quello al quale faceva riferimento lei, e il secondo riguardava invece la possibilità per il Parlamento britannico di esercitare un maggiore controllo sulle trattative che il governo britannico porterà avanti per appunto arrivare al tanto agognata da parte del governo l'osservatore Brexit. A questo punto l'approvazione che la Camera dei Comuni ha rinnovato al testo originario presentato qualche tempo fa, di fatto dà il via libera al governo, perché come è noto il sistema parlamentare britannico non è un bicameralismo perfetto come quello italiano, ma appunto vede una chiara preminenza della Camera elettiva sulla Camera dei Lord, che è una Camera non elettiva. E per quanto riguarda invece appunto la Scozia, no? Sentivamo la Prima Ministra che ha detto praticamente oggi che il governo britannico rifiuta ogni compromesso che ci consenta di rimanere almeno dentro il mercato comune europeo, non ci resta altra strada che decidere da soli il nostro futuro. Rispetto a quando era stata approvata la Brexit col referendum, mi sembra che siano cambiate un po' le cose, perché allora già la Scozia voleva chiedere l'indipendenza, ma i sondaggi non erano favorevoli al sì per il fatto di staccarsi, no, dal Regno Unito. Adesso pare che siano un po' cambiate le cose, che i vari scozzesi, la gran parte degli scozzesi... Allora, sicuramente sì, diciamo, c'è questo il cambiamento ancora leggero in realtà, che però i sondaggi hanno già registrato. Dopodiché dobbiamo tenere presente una cosa, e cioè che la mossa della Sturgeon è una grande manovra tattica per mettere in difficoltà il governo conservatore, ma il governo scozzese, il Parlamento scozzese non ha i poteri per indire un referendum. Quando fu fatto il referendum nel 2014, il referendum fu effettuato perché Londra, cioè il Parlamento del Regno Unito, Westminster, concesse al governo scozzese i poteri per effettuare quel referendum. Quindi sarà sempre Londra che deciderà se, come e con quale tempistica concedere agli scozzesi la possibilità di un nuovo referendum. Quindi la mossa della Sturgeon è assolutamente brillante dal punto di vista tattico, perché riesce a guadagnare le prime pagine dei giornali, bruciando, diciamo, togliendo l'attenzione per un attimo dal governo conservatore della May e dalla Brexit per spostarlo sulla Scozia. Riesce a mettere in difficoltà il governo conservatore, perché di fatto a questo punto, oltre a dover decidere e portare avanti le trattative con la Commissione europea per quanto riguarda la Brexit, la May dovrà anche tenere a bada gli scozzesi che premono per avere l'autorizzazione e i poteri per effettuare un secondo referendum. Quindi da questo punto di vista è stata una mossa tattica molto, molto efficace e brillante. Detto ciò, appunto, il potere effettivo rimane sempre nelle mani di Londra e del governo presieduto da Theresa May. Chiaro. Grazie intanto, professor Bruni. Grazie, buona serata. Grazie a voi, buona grazie. E poi abbiamo, parte il messaggio di Gianni da Parma, fra i vari, che dice: dare preminenza al parere del medico rispetto al mio, che vivo sulla mia pelle il dolore, frustrazione, angoscia sulla mia vita, voglio decidere io. Se altri pensano di far valere visioni o ideali religiosi, io faccio pure lo facciano pure per la propria di vita, dice Gianni. Adesso c'è Dario Ricci che ci aggiorna invece sulla partita, continua, mi pare, 1-0 così. Sì, qualche occasione per la Lazio con Immobile, Parolo e Lulic, ma la difesa del Torino tiene, quindi siamo a inizio della ripresa. In questo istante, intorno al 50esimo, risultato ancora di 0-0, mentre con l'occasione d'aggiorno su una sfida ben più saporita che di Coppa d'Inghilterra, che vede di fronte il Chelsea di Antonio Conte, il Manchester United di José Mourinho, i principi degli allenatori mondiali. Ebbene, il Chelsea a inizio ripresa in vantaggio per 1-0. Grazie Dario Ricci, ciao caro Dario. Intanto vedo che sale ulteriormente la tensione tra Turchia e Olanda, perché un dispaccio di agenzia dell'ANSA di poco fa: Turchia, chiuderemo, dice la Turchia, lo spazio aereo ai diplomatici dell'Olanda. Insomma, tanto per stare tranquilli, ce n'è sempre una. Direi che però possiamo lasciarci adesso brevemente, poi sapete che torno ad aggiornarvi alle 22.